Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione non violenta per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 474, nella quale parleremo di perdite e smarrimenti, perdite di habitat, di sapori, perdite di specie, ma anche di incontri, di ritrovamenti, per esempio di incontro con l'ottima cucina indiana. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Accadendo qualcosa di estremamente grave, qualcosa che mette le persone che sono come noi sensibili alla natura, ma anche ai suoi abitanti, in grande difficoltà nel prendere una posizione. Che cosa è accaduto? Ce lo racconta il nostro Lorenzo Guadagnucci con il suo servizio. La notizia che arriva dall'India è a dir poco sconvolgente e propone un dilemma etico e politico davvero fuori dal comune. La Corte Suprema indiana nei giorni scorsi ha chiesto sostanzialmente a 16 stati della federazione di sgomberare una vasta porzione di territorio dalla presenza di popolazioni indigene entro il prossimo 24 luglio. Si stima che si tratti di 8 milioni di persone che attualmente vivono nelle foreste. Il motivo dello sgombero sarebbe la protezione della fauna selvatica. Siamo quindi di fronte a un conflitto mai visto, almeno non in queste proporzioni. E non si tratta, come altre volte, di una contrapposizione fra tutela degli animali o dell'ambiente naturale e l'affermazione delle esigenze produttive o insediative di comunità umane. Stavolta si contrappongono i diritti e le tutele spettanti a gruppi comunque discriminati e minacciati. Il problema è che condividono parti dello stesso territorio e la Corte Suprema indiana sembra avere scelto la prevalenza della tutela degli animali selvatici. O meglio, la Corte ha deciso che le forme di tutela devono convivere, sono entrambe valide, ma ha stabilito che in certe zone del paese la tutela delle popolazioni indigene riguarda solo una parte dei membri delle tribù. La restante parte deve lasciare il campo, anzi la foresta libera. La causa è arrivata alla Corte Suprema è stata promossa da associazioni ambientaliste. Si è arrivati così al paradosso di dover allontanare persone che vivono immersi in un ambiente considerato naturale, fuori dai circuiti sociali prevalenti, per finire non si sa bene dove, a vivere non si sa bene come. Una scelta imposta ufficialmente dalla necessità di tutelare la fauna selvatica, ma che forse non è estranea alla storica ostilità dei poteri stabiliti verso i popoli indigeni, visti con sospetto in quanto marginali e sfuggenti. l'organizzazione Survival International ha lanciato un appello, sostenendo che si profila un possibile disastro umanitario. È una sentenza di morte per milioni di indigeni, sostiene il portavoce generale dell'organizzazione, Stephen Curry. Un furto di terra di proporzioni epiche. Causerà una crisi umanitaria e non servirà a salvare le foreste, dice ancora, che gli indigeni proteggono da generazioni. Davvero il WWF e le altre grandi associazioni conservazioniste si faranno complici della più grande espulsione di massa mai avvenuta in nome della tutela della natura? La domanda posta dal rappresentante di Survival International è drammatica e dimostra quanto siamo vicini al collasso, non solo ambientale ma anche civile e politico, per non dire morale. Le popolazioni indigene in tutto il mondo si stanno rivelando, anziché un residuo del passato, una via di salvezza verso il futuro, visto che hanno coltivato nei secoli un atteggiamento di rispetto verso Madre Terra. Il loro modello esistenziale è capace di futuro, diversamente da quello industriale e produttivo oggi prevalente, avviato verso la distruzione della vita sul pianeta. Gli indigeni indicano una via d'uscita, in una relazione con gli habitat naturali, compatibile nelle sue grandi linee con le esigenze degli animali selvatici. Compatibile, ma fino a un certo punto, dice la Corte Suprema indiana, indicando di fatto l'ennesima contraddizione della fase storica che stiamo attraversando. Ma la sentenza della Corte indiana non può condurre a disastri umanitari come quello evocato da Survival International. Ci deve essere un compromesso possibile, ci sono sempre alternative. Popolazioni indigene e animali selvatici dovrebbero essere parte della stessa lotta volta a garantire un futuro alle foreste indiane, all'India, al mondo intero. Diciamo allora che la sentenza della Corte indiana non chiude, bensì apre una vicenda importante e delicata. Ne seguiremo gli sviluppi. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, hare, hare, hare. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow, hare, hare, hare. Bow down, mister, hare Rama, hare Krishna. Bow down, mister, we say Radhe Shyam. Right thing with your hands, lay down on the pleasing sands, whatever else your faith demands. Hare, hare, hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Hare, hare, hare. Bow down, mister, Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister, we say Radhe Shyam. Bow down, mister, Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister, we say Radhe Shyam. In the desert, Kashmir, they put Kankan in their hair. At the Westerners they stare, hare, hare, hare. Paint a tealock on your brow, open like a lotus flower. It's time to check your karma now, hare, hare, hare. Bow down, mister, Hare Rama. Ed è dedicata all'India la ricetta di oggi, curata come sempre dal tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico, il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Thank you. La notizia dello sfratto degli indigeni in India mi ha fatto rivivere i viaggi in quella affascinante terra. Tanti sono i ricordi e le immagini, e da amante della cucina non posso scordare colori, sapori e profumi di una varietà infinita di spezie. E allora preparatevi a mescolare sapientemente semi e polveri colorate e profumate per preparare il chana masala, e che sia di buon auspicio per la resistenza. Gli ingredienti per 4 persone per il chana masala sono 200 g di ceci lasciati in ammollo per una notte, 2 cipolle, 2 cucchiaini di radice di zenzero fresco tritato, 4 spicchi di aglio, una stecca di cannella, 2 semi di cardamomo, 5 chiodi di garofano, 2 foglie di alloro, 1 cucchiaino di cumino, 1 cucchiaino di semi di carambola, 2 pomodori medi tritati oppure della passata di pomodoro, 2 peperoncini verdi, 2 cucchiai di olio di cocco, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, mezzo cucchiaino di peperoncino rosso del Kashmir in polvere, un cucchiaino di mango in polvere, del coriandolo fresco e un limone. Dopo aver lasciato i ceci in ammollo per una notte, sciacquate bene e metteteli a cuocere in una pentola assieme a una cipolla tagliata a fette, cardamomo, chiodi di garofano, cannella, l'aglio tritato finemente, lo zenzero, semi di cumino e di carambola e del sale. Coprite di acqua e fate cuocere coperti a fuoco medio-basso. Quando i ceci saranno cotti, scolateli conservando l'acqua di cottura. A parte in un tegame, fate scottare l'altra cipolla che avrete tritato. Quando l'acqua sarà ritirata, aggiungete un cucchiaino di olio di cocco e fate soffriggere fino a dorarle. Aggiungete i pomodori e lasciate ritirare. Quindi unite i peperoncini verdi, la curcuma e il peperoncino rosso in polvere. Fate cuocere per qualche altro minuto, quindi unite il tutto ai ceci. Aggiungete un po' di acqua di cottura e fate cuocere ancora 15 minuti a fuoco lento. Non dovrà risultare troppo denso. E per avere una consistenza cremosa potrete tritare una piccola parte dei ceci. A questo punto unite il mango in polvere, aggiustate di sale e fate cuocere ancora 5 minuti. Quindi togliete dal fuoco e servite il chana masala caldo con del coriandolo fresco tritato, spicchi di limone e del riso basmati. Biodiversità è al collasso, lo dice la FAO nel suo rapporto sullo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura pubblicato il 22 di febbraio. Il 24% di quasi 4.000 specie di cibo selvatico, principalmente piante ma anche pesci e mammiferi, sta diminuendo in 91 paesi. La biodiversità alla base dei nostri sistemi alimentari, evidenzia il rapporto, sta scomparendo, mettendo a rischio il futuro dei nostri alimenti. alimenti, della salute umana e degli insetti impollinatori come api e farfalle. Una volta perduta tanta ricchezza alimentare non potrà mai più essere recuperata. Il rischio dunque è la perdita di sapori e derrate alimentari, ma anche di un'ulteriore omologazione della dieta. Basti pensare che la produzione mondiale di bestiame si basa oggi su circa 40 specie animali. La stragrande maggioranza di carne, latte e uova dunque deriva da pochissime razze allevate. Il rapporto denuncia anche l'aumento della percentuale di stock ittici sovrasfruttati e la perdita di piante, animali e microorganismi come insetti, pipistrelli, uccelli, mangrovi e coralli, piante marine, lombrichi, funghi e batteri che mantengono i terreni fertili, impollinano le piante, purificano l'acqua e l'aria. Tra le cause, i cambiamenti nell'uso della gestione della terra e dell'acqua, seguiti da inquinamento, sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, crescita della popolazione e urbanizzazione. Non fa eccezione l'Italia, anzi, secondo un'analisi di Coldiretti, sono scomparse dalla tavola 3 varietà di frutta su 4 nell'ultimo secolo. In Italia, nel secolo scorso, si sottolinea, si contavano 8.000 varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco meno di 2.000. Di queste, 1.500 sono considerate a rischio scomparsa. Meno biodiversità significa che piante e animali sono più vulnerabili ai parassiti, alle malattie, e questo, aggiunge sempre il rapporto, insieme alla nostra dipendenza da un numero sempre minore di specie per nutrirci, sta mettendo la nostra già fragile sicurezza alimentare sull'orlo del collasso. Nuovamente notiamo in questo rapporto l'interesse umano per la biodiversità ha sempre una prospettiva utilitaristica, come se si trattasse di un problema esclusivo della specie umana e della sua presenza sulla Terra. Si insiste quindi a non capire che siamo un tassello di un puzzle più grande di noi e che tutte le altre specie, animali e vegetali, hanno dignità in sé, a prescindere dall'uso e dall'utilizzo che noi umani ne facciamo. Un atteggiamento, quello della nostra specie, che ovviamente fa parte del problema e non prelude alla sua soluzione. The yellow eel is a sexually immature adult stage of the eel. They begin to develop a yellow color and a creamy or yellowish belly. Sexual differentiation occurs during the yellow stage. As the maturation process proceeds, the yellow eel metamorphoses into a silver eel. The silvering metamorphosis results in morphological and physiological modifications that prepare the animal to migrate back to the Sargasso Sea. Sargasso Sea. Back, back, back to the Sargasso Sea. Back to the Sargasso Sea. www.nationalgeographic.it abbiamo trovato una notizia seria e preoccupante. Il governo di Canberra ha confermato le conclusioni di uno studio del 2016. Melomis rubicola, un piccolo roditore che abitava su una sola isola, è scomparso in seguito all'innalzamento del livello del mare. Si tratta della prima estinzione di un mammifero a causa dei cambiamenti climatici, almeno la prima di cui si ha contezza. Il fattore determinante che ha causato questa estinzione è stato sicuramente l'inondazione dell'isola in cui viveva il piccolo roditore, un'isola bassa che si chiama Bramble Cay. L'innalzamento del livello del mare causato dai venti meteorologici estremi ha avuto effetti distruttivi. In primis, una drammatica perdita di habitat per la vita animale e forse anche la mortalità diretta di tanti individui. In tutto il pianeta il livello del mare è aumentato di quasi 20 cm tra il 1901 e il 2010, un tasso che non ha pari negli ultimi 6.000 anni di storia. Intorno allo stretto di Torres, tra il 1993 e il 2014, il livello è aumentato a un tasso che è quasi il doppio rispetto alla media globale. Questo piccolo mammifero, il Melomis rubicola, il piccolo roditore, è quindi soltanto la prima di molte specie che rischiano l'estinzione a causa del riscaldamento del clima. Ci aspettavamo che a un certo punto sarebbe arrivata la prima vittima, hanno affermato i ricercatori, ma rimane una notizia scioccante. Andiamo dicendo da molto tempo, noi della redazione di Restiamo Animali, occuparsi di animali senza occuparsi di ambiente e di clima è un'operazione marziana. Ma a vivere su Marte è sicuramente il presidente degli Stati Uniti, un paese che ci offre sempre grandi soddisfazioni quando si parla di consumi e impatto ecologico. È di questi giorni la notizia che Trump avrebbe in mente di smentire la comunità scientifica globale sul cambiamento climatico. È ormai risaputo, infatti, che il presidente degli Stati Uniti prende la questione del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici come una farsa. Ora però, oltre a negare le evidenze, tweet dopo tweet, la Casa Bianca avrebbe deciso di mettere su una squadra di scienziati pronti a smentire e rivedere al ribasso gli effetti del climate change. A rivelarlo è il Washington Post, citando tre funzionari che avrebbero partecipato a una riunione in proposito venerdì scorso. Secondo uno di questi funzionari, il presidente vorrebbe avere un misto di opinioni. Il suo obiettivo sarebbe quello di far sì che le persone siano in grado di decidere da sole sul cambiamento climatico. Che dire, sembra di essere tornati ai tempi in cui si negava che la Terra ruotasse attorno al Sole. That if you really love me, you'd risk more than a few 50-cent words in your backhanded love song. For it begs the question, how did I ever find you? Drifting gently through the jar of the great Sargasso Sea Atlantic Ocean. If on your song you miss it, you got me writing love songs. It's that you really love me, with the common refrain like siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 475 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.